Boys and girls, your attention please. Presenting a new exciting radio program. Tutti più buoni, tutti più carini. Oggi nel mondo comandano i bambini. Chiedo asilo. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Roma. E un saluto da Milano, fine. No, non sei convincente, Drago. Sei convincente tu come milanese quanto io come romano. Comunque oggi Chiedo Asilo va in onda grazie a un esperimento di telepatia estrema sponsorizzato da una famosa software house di telecomunicazione internet che vuole passare dalla videofonia tradizionale a quella telepatica. Sì, e oggi ci permette in esclusiva di usare questo nuovo software telepatico. E noi, caro Drago, comunichiamo pur essendo tu a Milano e io nella capitale. Sì. Si sente bene, no? Tutto sente benissimo, perfetto. Poi dobbiamo fare la recensione del software, quindi occhio a tutti gli errori e alle cose da migliorare. Certo, va bene. Radio 24 qui è sensibile ai software. Va bene, allora Kappa, com'è questo asilo di Roma in cui ti trovi in questo periodo, in questo momento? È bellissimo. C'è Valeria, cioè siamo tutti rilassati, bellissimo. Vabbè, ma questi sono i soliti luoghi comuni su Milano, che è stressante, invece Roma che è rilassante, dai, basta. Non è vero, guarda che invece di Suor Dentona qui per esempio c'è Suor Pagliata. Ah, ecco. Mi sembra una bella differenza, no? Suor Pagliata. Pagliata, Vabbè. Cosa, vabbè. È una cosa un po' così, cioè. Senti, io qui a Roma sono in missione per conto dell'amministratore delegato. Hai capito? Delegato. Amministratore A o A, delegato A. Ma in realtà non sto facendo un tubo e quindi mi diverto in giro per la città. Ah, bene. Cosa fai? Vai ai musei vaticani, queste cose di Roma, tipiche, musei, no? Quali vaticani? Drago, mi faccio 4-5 grattachecche, tutte filate, poi mi viene mal di testa per un paio d'ore, almeno per due ore so cosa fare, no? E cioè? E cioè, me ne sto su una panchina e smaltisco il mal di testa. Vabbè, ma come un tossico che aspetta che gli passi la botta, ma capa. Più o meno, sì. Però adesso sei all'asilo, non sei sulla panchina. Sì, ma di Roma, hai capito? Ecco, allora bravo, ho capito. Ma non ci sono bambini da intervistare lì, così cambiamo un po' per una volta. Ma lascia perdere le interviste, Drago, come piuttosto. La telepatia, come ti sembra? Ah, tutto bene, no? Ma non hai un po' di mal di testa? Io no, assolutamente. Io sì. Devo dirlo alla software house qua. Ma sei sicuro che sia la telepatia? Ma forse sono le grattachecche. C'ho anche un leggero mal di pancia. Dice che cazzo stai a fa. Dico, guarda televisione. Dice che cazzo stai a guarda. Dico, sto a guarda la Svizzera italiana. Dice, ma che te sei ammattito. Ma guarda tele Roma. Dico, me sei rotta l'antenna centralizzata. Dice, cazzo me chiamavi te. Portavo la scheda craccata. Semo se può cambiare, ci piacciono i polli, la pacchio le galline, non ci piace il baccalà, semo, semo di Roma, e questa la verità. La scorsa settimana, Kappa, se ricordi, avevamo provato a contattare l'amministratore delegato per chiedergli un'opinione sul fenomeno delle ragazze madri, o meglio delle bambine madri. In molti casi sono bambine madri. Sì, ma lui non c'era. Telefono che suona a vuoto, segreteria, solito. Infatti, però poi io gli ho mandato poi un SMS e lui mi ha gentilmente risposto. È senza voce perché ha festeggiato il Milan per 10 giorni filati e non può parlare, però ha mandato un SMS che vorrei leggerti. Ma come? Un SMS autografo dell'amministratore delegato, roba proprio da mercato roba nero sua. Di memorabilia. Certo, sulle bambine madri, vai. L'amministratore delegato dice: approntate un rapimento a campione dei figli, mettetevi prima d'accordo con la questura dicendo che sono i figli di Gheddafi, portate i rampolli sotto il vulcano della villa in Sardegna del bambino premier e fotografateli con in mano una copia di GQ in modo che si veda bene la data. Ciao. E ora bambini, ricreazione. Oh, bambino Alberto, come va? No, aspetta, Drago, non guardarmi con quella faccia lì. Che faccia è? Perché oggi faccio ricreazione, quindi niente intervista. Come niente intervista? Oggi è giorno off. Giorno off, ma senti questo giorno off. Giorno off, day off, cioè oggi si sta fermi, non si lavora. Oggi voglio stare spento, no? Spento, off, hai capito. Vabbè, però bisogna concordarlo con gli altri il giorno off, cosa credi? Non è che ti svegli la mattina e dici oggi faccio che un giorno off, me ne sto a casa. E vabbè, allora, io quando dovrei dirtelo? Almeno il giorno prima, no? Vabbè, ma se ieri era domenica, oggi è lunedì, quando te lo dicevo? Quando è lunedì allora devi pensarci fin dal venerdì prima, hai capito? C'è il weekend in mezzo. Ma no! è una menata. Poi il day off, il day off è un po' come il freestyling, cioè non è perché? Che è una perché cosa inglese. Improvvisata, no? No, perché improvviso, non è che il day off lo prevedi. No, Mattia, ti alzi e dici oggi è day off, oggi spegniamo perché. No. Guarda, ti posso insegnare che non sarà così, almeno finché sei bambino, magari. Puoi anche comportarti così se ti fa piacere. Quando sarai adulto, invece, il day off è una cosa che bisogna concordare, se no il tuo comportamento non è corretto, capito? Non è corretto. Non è corretto, però vabbè. Però, a parte la correttezza, tu oggi cosa fai da solo? Il tuo socio dov'è? Il mio socio è a Roma, è una storia lunga, se vuoi te la racconto. No, ma scusa, allora, Drago, già che sei solo, sì. Ma spegni il microfono e fai il day off anche tu, no? Ma quale day off? Oggi è un normalissimo lunedì di maggio, capito? Però, ok, dai, tu se vuoi vai pure a giocare. Perché, insomma, sei un bambino, è giusto così. Vabbè. E a che cosa giochi? A frisbee? No, è frisbee, Poi gli fa male ai denti. Ai denti? I frisbee? Ai denti! Ma come? Sì, perché i miei amichetti dell'asilo, quando ci chiamo frisbee, sì. Mi obbligano a prendere il frisbee al volo in bocca. È come i cani. Ma non è possibile. Ma come non è possibile? Certo, è bullismo quello lì. Io sono la vittima del bullismo. Lo so, questa è una cosa che bisogna poi dopo risolvere. Però vabbè, allora vai a giocare a pallone. Pallone, no? Non va bene neanche il pallone. Perché? Perché allora vado a casa con i denti sani. Sì. Però pieno di lividi. Vabbè, per forza mi fanno fare la traversa delle partitelle. Ma come sarebbe la traversa? È il ruolo che mi è stato assegnato dai bulli. Il ruolo, la traversa? Ma guarda che la traversa non è un ruolo, eh. I ruoli sono il terzino, il centravanti, il mediano di spinta. Vieni a dirlo a me. Però il mio ruolo è la traversa. La traversa. Cioè piantano due pali per terra. Sì. Poi mi mettono orizzontale su due pali, no? Ma come? E il gioco è beccare la traversa, che sarei io, no? E la beccano. Quindi in media ogni tre pallonate io cado per terra. E facendomi un male della Madonna, no? Ci credo. Allora, poi una volta caduto mi rimettono su e vai con le pallonate ancora. Non è possibile. A me giocare a pallone così non piace mica tanto, eh. Eh beh, ci credo. Vabbè, comunque qualcosa dovrai pur farlo, no? Durante questo giorno off. Non giocherai a frisbee, non giocherai a pallone a farti dare le pallonate. Però insomma, qualcosa dovrai pur farlo, no? Lo so, hai ragione anche tu. Però ormai il tempo passa. E ne è passato anche oggi e non ho ancora fatto niente. Vabbè, ma bambino Alberto. No, perché io sono al solito inconcludente. Inconcludente. Sì, poi mi viene la tristezza. Ma no, dai. Mi deprimo perché ho il tempo libero e non riesco a utilizzarlo. Lo so. Uè, Gildo! Meno male che c'è Gildo. Gildo, oggi sei la mia salvezza. Ma quale Gildo? Non esiste Gildo. Gildo, vabbè, ma che triste. Giochiamo insieme. Facciamo il gioco della mano straniera. Sì, tu sai come si gioca, no? Sì, no. Allora, prendi un laccio emostatico. Te lo leghi al braccio. Strettissimo, Sì, sì, sì. Poi aspetti qualche minuto. Sì. Aspetti qualche minuto e quando perdi sensibilità, allora lì comincia a perdere sensibilità al braccio. Gildo, Gildo, che noia mortale giocare da solo a battaglia navale. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sono triste, solitario. Gildo, Gildo, facciamo che tu eri Gildo, Gildo, il mio amico immaginario. Gildo, Gildo, vai con la base. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, sei come un fantasma, nessuno ti vede. Gildo, Gildo, ma c'hai la voce con l'asma. Gildo, Gildo, Gildo, Gildo, siamo culo e camicia. Gildo, Gildo, io sicuramente sono la camicia, quindi necessariamente tu devi fare il culo. Gildo, facciamo merenda? Giochiamo rinvii? Montiamo una tenda? Giochiamo la Wii? Facciamo una festa? Chiamiamo due escort? Anzi, due a testa? Però paghi tu, Gildo, Gildo. Allora, Gildo, facciamo così. Questa volta tecnologia oggi. Niente ukulele, eh? Senti che sigla. No, non è un ukulele, è un sintetizzatore portatile. Sempre nello stesso ambito. Cosa da bambini, da portarsi sempre, in giro, ma. Vabbè. Solite cose da bambini, scrivete. Vabbè, tu solite cose, tu dille le mail. Sì, dico le solite mail, mandate i vostri riferimenti per gli strumenti da bambini che volete che K suoni a chiedosilo@radio24.it.